Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Kappa non si sarebbe certo accorto di quel piccolo pulpito se sopra non vi fosse stata fissata una lampada, come uso fare poco prima che cominci una predica. Doveva esserci una predica a quell'ora, nella chiesa vuota. Kappa guardò in fondo alla scala che, stringendosi alla colonna, portava al pulpito, così stretta da non sembrare fatta per delle persone, ma solo per ornamento della colonna. Tuttavia, sotto il pulpito, Kappa sorrise dallo stupore. C'era davvero il sacerdote. Teneva la mano sulla balaustra, pronto a salire, e volgeva lo sguardo verso Kappa. Poi fece un leggero cenno con il capo, per cui Kappa si fece il segno della croce e si inchinò, cosa che avrebbe dovuto fare già prima. Il sacerdote prese un piccolo slancio e con rapidi, brevi passi salì fino al pulpito. Sarebbe davvero cominciata una predica. Forse il sagrestano non era del tutto sprovveduto di ragione e aveva voluto spingere Kappa verso il predicatore, cosa d'altra parte più che necessaria nella chiesa deserta. D'altronde, da qualche parte, davanti a una Madonna, c'era una vecchia, anche lei sarebbe dovuta venire. E se doveva esserci una predica, perché l'organo non eseguiva un preludio? Ma quello restava muto e baluginava solo debolmente dal buio della sua grande altezza. Kappa pensò se non si sarebbe dovuto allontanare immediatamente. Se non lo faceva adesso, non c'era nessuna probabilità di farlo durante la predica. Sarebbe dovuto rimanere lì finché fosse durata. Perdeva tanto tempo in ufficio. Da un pezzo non era più tenuto ad aspettare l'italiano. Guardò l'orologio. Erano le 11. Ma una predica era davvero possibile? Poteva Kappa da solo rappresentare la comunità? E se fosse stato un forestiero che voleva solo visitare la chiesa? In fondo, non era altro che questo. Era assurdo pensare a una predica. Adesso, alle 11, in un giorno feriale, con un tempo orribile. Il sacerdote, era senza dubbio un sacerdote, giovane, con un viso glabro e scuro, saliva evidentemente lassù soltanto per spegnere la lampada, accesa per errore. Ma non fu così. Il sacerdote verificò invece la luce. Alzò ancora un poco lo stoppino, poi si girò adagio verso la balaustra, per stringerne dall'esterno con entrambe le mani l'orlo squadrato. Rimase per un po' così, volgendo lo sguardo in giro, senza muovere il capo. Kappa s'era fatto indietro di un bel pezzo e con i gomiti stava appoggiato al primo banco. Con occhi incerti, vide da qualche parte, il luogo non poteva precisarlo, il sagrestano, che curvava la schiena e si rannicchiava tranquillo, come dopo un compito assolto. Che silenzio dominava ora nel Duomo. Ma Kappa era costretto a turbarlo. Non aveva l'intenzione di rimanere. Se era dovere del sacerdote predicare a un'ora determinata, senza tener conto delle circostanze, lo facesse pure. Sarebbe riuscito anche senza la partecipazione di Kappa. Mentre, allo stesso modo, la presenza di Kappa non avrebbe certo accresciuto l'efficacia. Kappa prese dunque a muoversi adagio. Tastando in avanti, con la punta dei piedi lungo il banco, arrivò nel passaggio centrale e anche là continuò indisturbato, solo che il pavimento di pietra risuonava al passo più leggero e le volte facevano eco debolmente, ma ininterrottamente, in molteplice e regolare progressione. Kappa si sentiva un po' abbandonato, mentre passava solo attraverso i banchi vuoti, forse osservato dal sacerdote. E anche la vastità del Duomo gli sembrava al limite di quanto un uomo può sopportare. Raggiunto il posto occupato in precedenza, agguantò, senza indugio ulteriore, l'album rimasto lì e lo prese con sé. Aveva quasi lasciato il tratto dei banchi e si accostava allo spazio libero tra questi e l'uscita, quando per la prima volta udì la voce del sacerdote. Una voce possente, esercitata. Come risuonò nel Duomo pronto ad accoglierla. Ma non era la comunità che il sacerdote chiamava. Era ben chiaro e non c'erano scappatoie. Chiamava Josef Kappa! Thank you. K si arrestò di colpo, gli occhi al suolo. In quel momento era ancora libero. Poteva ancora proseguire e scappare da una delle tre scure porticine di legno non lontane da lui. Avrebbe significato che non aveva capito, oppure che aveva capito ma che non dava peso al richiamo. Se si voltava invece era vincolato, perché allora confessava di aver capito bene che la persona chiamata era proprio lui e che avrebbe anche obbedito. Se il sacerdote avesse chiamato un'altra volta, K sarebbe uscito di certo, ma visto che tutto taceva finché anche K aspettava, volse appena la testa per vedere cosa faceva il sacerdote. Stava immobile nel pulpito come prima, ma era chiaro che aveva notato K muovere la testa. Se K adesso non si fosse voltato del tutto, sarebbe stato un puerile gioco a nascondino. Lo fece, e il sacerdote con un cenno del dito lo chiamò più vicino. Poiché ora tutto poteva avvenire apertamente, corse, lo fece anche per curiosità e per abbreviare la cosa, con passi lunghi, veloci, verso il pulpito. Ai primi banchi si fermò, ma il sacerdote trovò la distanza ancora eccessiva. Tese la mano e con l'indice, quasi ad angolo retto, indicò un posto proprio sotto il pulpito. K obbedì anche questa volta. Da quel punto doveva piegare la testa all'indietro per arrivare a vedere il sacerdote. «Tu sei Joseph K?» disse il sacerdote. E alzò una mano sopra la balaustra con un gesto vago. «Sì!» disse K. E pensò come prima avesse sempre pronunciato apertamente il suo nome. Da qualche tempo esso gli era di peso. Inoltre adesso conosceva il suo nome gente che incontrava per la prima volta. Com'era bello presentarsi ed essere conosciuti solo dopo. «Tu sei accusato!» disse il sacerdote in tono singolarmente basso. «Sì», disse K. «Me l'hanno comunicato». «Allora sei tu quello che cerco», disse il sacerdote. «Io sono il cappellano delle carceri». «Ho capito», disse K. «Ti ho fatto chiamare qui», disse il sacerdote, «per parlare con te». «Non lo sapevo», disse K. «Sono venuto qui per mostrare il Duomo a un italiano». «Lascia andare le cose secondarie», disse il sacerdote. «Cosa hai in mano? Un libro di preghiere?» «No», rispose K. «È un album dei monumenti civici». «Posalo», disse il sacerdote. K lo gettò con tale violenza che quello si aprì e scivolò per un tratto sul pavimento coi fogli gualciti. «Sai che il tuo processo va male?» chiese il sacerdote. «Pare anche a me», disse K. «Ho fatto del mio meglio, ma finora senza successo. D'altra parte, non ho ancora pronta la memoria». «Come prevedi la fine?» chiese il sacerdote. «Prima pensavo che dovesse finire bene», disse K. «Adesso a volte ne dubito io stesso. Non so come finirà. Tu lo sai?» «No», disse il sacerdote. «Ma temo che finirà male. Ti considerano colpevole. Il tuo processo non andrà forse oltre i limiti di un tribunale di grado inferiore. Almeno per il momento la tua colpa si considera provata». «Ma io non sono colpevole», disse K. «È un errore. Come può un uomo in genere essere colpevole? E qui siamo tutti uomini, l'uno come l'altro». «Giusto», disse il sacerdote. «Ma è così che parlano i colpevoli». «Anche tu hai una prevenzione contro di me?» chiese K. «Non ho nessuna prevenzione contro di te», disse il sacerdote. «Ti ringrazio», disse K. «Ma tutti gli altri che hanno una parte nel processo hanno una prevenzione contro di me. La ispirano anche a persone estranee al caso. La mia posizione diventa sempre più difficile». «Tu fraintendi i fatti», disse il sacerdote. «La sentenza non arriva di colpo. Il processo si trasforma a poco nella sentenza». «Ah, è così», disse K e piegò la testa. Cosa intendi fare adesso per la tua causa? Chiese il sacerdote. Cercherò ancora aiuti, disse K, e alzò la testa per vedere come il sacerdote giudicava il proposito. Ci sono ancora certe possibilità che non ho sfruttato. Cerchi troppo l'aiuto di estranei, disse il sacerdote in tono di disapprovazione. E specialmente di donne. Non ti accorgi che non è questo il vero aiuto? A volte, anzi spesso, potrei darti ragione, disse K. Ma non sempre. Le donne hanno una grande potenza. Se potessi indurre alcune donne che conosco a lavorare tutte insieme per me, dovrei spuntarla, specie con un tribunale simile, composto quasi tutto da donnaioli. Mostra da lontano una donna al giudice istruttore e quello rovescerà banco e imputato pur di arrivare in tempo. Il sacerdote chinò il capo sulla balaustra. Solo ora il tetto del pulpito parve schiacciarlo. Chissà che tempaccio era fuori. Non era più una giornata buia, era notte fonda. Nessuna vetrata dipinta dei finestroni riusciva a interrompere, sia pure con un barlume, la parete scura. E proprio in quel momento il sagrestano cominciò a spegnere, una dopo l'altra, le candele sull'altare maggiore. «Sei in collera con me?» chiese Cappa al sacerdote. «Forse non sai quale tribunale tu servi?» Non ricevette risposta. «Parlo solo delle mie esperienze», disse Cappa. In alto continuava il silenzio. «Non volevo offenderti», disse Cappa. Allora il sacerdote gridò in basso verso K. «Ma non vedi a due passi di distanza?» C'era ira in quel grido, che però sembrava anche venire da uno che vede un altro cadere e grida involontariamente, incautamente, perché lui stesso si è spaventato. A questo punto entrambi tacquero a lungo. Certo, il sacerdote non poteva distinguere bene K nel buio che regnava in basso, mentre K vedeva chiaramente il sacerdote alla luce della piccola lampada. Perché il sacerdote non scendeva? Non aveva tenuto una predica, ma solo fatto a capo alcune comunicazioni che, se questi le avesse seguite a puntino, gli sarebbero state più di danno che di vantaggio. In ogni modo, a capo la buona intenzione del sacerdote sembrava indubbia. Non era impossibile che il religioso, una volta sceso, si intendesse con lui. Non era impossibile che gli desse un consiglio decisivo e accettabile, che lo istruisse, per esempio, non tanto sul modo di influenzare il processo, ma di poter evadere dal processo, di aggirarlo, di vivere fuori del processo. Questa possibilità doveva esserci. Negli ultimi tempi K aveva pensato spesso ad essa. Ma posto che il sacerdote conoscesse tale possibilità, se pregato l'avrebbe forse rivelata. Sebbene lui stesso appartenesse al tribunale e sebbene quando K aveva attaccato il tribunale avesse represso la sua natura mite e addirittura alzato la voce contro K. «Non vuoi venire giù?» disse K. «Non è che devi fare una predica. Vieni giù da me». «Adesso posso anche venire», disse il sacerdote, che forse si pentiva del suo grido. Mentre staccava la lampada dal gancio disse: «Prima dovevo parlare con te da lontano, altrimenti mi lascio influenzare troppo facilmente e dimentico il mio ufficio». K lo aspettava in fondo alla scala. Il sacerdote gli tese la mano da uno dei gradini superiori, mentre ancora stava scendendo. «Hai un po' di tempo per me?» chiese K. «Tanto tempo quanto vuoi», disse il sacerdote. E porse a K la piccola lampada perché la portasse. Anche da vicino manteneva nel suo contegno una certa solennità. Thank you. Sei molto gentile con me, disse K, mentre camminavano affiancati avanti e indietro nella buia navata laterale. Sei un'eccezione tra tutti quelli che fanno parte del tribunale. Ho più fiducia in te che in qualsiasi altro di loro, per quanti le conosco. Con te posso parlare apertamente. Non illuderti, disse il sacerdote. Su cosa dovrei illudermi? Chiese K. Sul tribunale ti illudi, disse il sacerdote. Nelle scritture che introducono la legge si dice a proposito di questa illusione: davanti alla legge sta di guardia un custode. Un giorno da questo custode arriva un uomo di campagna e lo prega di farlo entrare nella legge, ma il custode dice che per il momento non gli può consentire l'accesso. L'uomo riflette e poi chiede se potrà entrare più tardi. È possibile, dice il custode, ma per il momento no. La porta della legge sta aperta come sempre. Il custode si fa da una parte e l'uomo si china per guardare attraverso la porta nell'interno. Quando il custode se ne accorge, ride e dice: se ti attira tanto, prova a entrare, nonostante il mio divieto. Ma attento, io sono potente e sono soltanto l'ultimo dei custodi. Ma di sala in sala sono di guardia altri custodi, uno più potente dell'altro. Neppure io reggo più alla vista del terzo. L'uomo di campagna non si aspettava tali difficoltà. La legge deve essere accessibile a tutti, in ogni momento. Pensa, ma guardando ora meglio il custode nella sua pelliccia, con il gran naso a punta, la lunga scura rada barba tartara, decide che è meglio aspettare fino al momento in cui non avrà il permesso di entrare. Il custode gli dà uno sgabello e lo fa sedere a un lato della porta. Quello siede lì per giorni e per anni. Fa molti tentativi per essere introdotto e stanca il custode con le sue preghiere. Il custode lo sottopone spesso a piccoli interrogatori, gli chiede del suo paese e di molte altre cose. Ma sono domande indifferenti, come quelle che fanno i grandi signori. E alla fine gli dice sempre che non lo può ancora far passare. L'uomo, che per il suo viaggio si è fornito di molte cose, le consuma tutte, anche quelle di valore, per corrompere il custode. Questi accetta tutto, ma dice: lo accetto solo perché tu non creda di aver trascurato qualcosa. Nel corso di quei numerosi anni, l'uomo osserva il custode quasi ininterrottamente. Egli dimentica gli altri custodi, e questo primo gli sembra l'unico impedimento per l'accesso alla legge. Nei primi anni maledice ad alta voce il caso disgraziato. In seguito, diventato vecchio, brontola solo tra sé. Rimbambisce, e siccome negli anni trascorsi a studiare il custode ha imparato a conoscere anche le pulci sul suo collo di pelliccia, prega anche le pulci di aiutarlo e di persuadere il custode. Infine, la vista gli diventa debole e non sa più se intorno a lui si fa veramente più buio o se sono solo gli occhi a ingannarlo. Ma è in quel momento che nel buio ravvisa uno splendore che erompe inestinguibile dalla porta della legge. Non vivrà più a lungo ormai. Prima della sua morte tutte le esperienze di quel periodo si raccolgono nella sua testa in una domanda che fino a quel momento non ha ancora rivolto al custode. Gli fa un cenno, perché non può più alzare il suo corpo che si sta irrigidendo. Il custode deve chinarsi profondamente su di lui, perché la differenza di statura è molto cambiata a sfavore dell'uomo. «Cosa vuoi ancora sapere adesso?» chiede il custode. «Sei insaziabile!» «Tutti tendono alla legge», dice l'uomo. «Come mai in tanti anni nessuno all'infuori di me ha chiesto accesso?» Il custode si accorge che l'uomo è ormai alla fine e per arrivare al suo udito che sta svanendo gli urla: «Qui non poteva avere accesso nessun altro, perché questo ingresso era destinato solo a te. Adesso vado a chiuderlo».